Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a ciascuno e a ciascuna di voi il mio saluto all'inizio di questa nuova puntata di La tua parola mi fa vivere. Stiamo percorrendo insieme il Vangelo di Marco e siamo arrivati nella grande pagina finale di questo Vangelo. Siamo più o meno al terzo anno delle nostre trasmissioni. Siamo arrivati, oggi apriremo insieme il capitolo 16. Ovviamente non lo commenteremo tutto, non è questa la volta in cui concludiamo questo magnifico percorso all'interno del secondo Vangelo, arricchito da tutti i vostri interventi e da tutte le vostre domande. Ci ritroviamo dopo la pausa estiva. In agosto non ci siamo sentiti perché il nostro appuntamento mensile coincideva con il pellegrinaggio, un pellegrinaggio che ho guidato proprio in Terra Santa con la mia parrocchia d'origine, rimmergendomi in quelle terre, in quei brani della parola di Dio che poi insieme ci troviamo a spezzare qui sulle onde di Radio Maria. Ecco, come sempre all'inizio della puntata ricordo un pochino gli obiettivi di questo nostro scambio e di questo nostro ascolto condiviso della parola di Dio. Il primo obiettivo è quello di cogliere il messaggio di Marco alla luce della narrazione di tutto il suo Vangelo, cioè non isolando i singoli brani come se fossero delle meteore staccate all'interno della narrazione evangelica, ma tenendo presente tutto il racconto di Marco, proprio per vedere come l'insieme mette ancora più in luce i tratti peculiari del Vangelo. Secondo obiettivo è quello di non stare attenti solo all'insieme, ma anche ai piccoli dettagli, a volte la traduzione di un termine, lo spostamento di una punteggiatura, di una virgola, dà un significato diverso al testo. Quindi sapere come una parola, un termine, una frase possono essere tradotti in modo diverso, quali sfumature possono assumere, può arricchire la nostra comprensione della parola e quindi il nostro modo di cogliere l'essere discepoli. Terzo obiettivo è non solo favorire in quest'ora e mezzo la nostra formazione intellettuale del testo, ma far sì che il testo tocchi in qualche modo la nostra vita, tocchi in qualche modo il nostro cuore. Ecco anche il titolo della nostra trasmissione, La tua parola mi fa vivere. Non arricchisce solo la testa, perché in quel caso lì la parola farebbe studiare, ma la parola mi fa vivere, cioè diventa in qualche modo vita, esistenza. Per raggiungere questi obiettivi non è sufficiente che chi parla faccia una lezione, è importante che entrambi, io e voi, siamo in ascolto della parola. E allora c'è una prima parte, i primi 45 minuti in cui vi condivido la mia riflessione sulla parola di Dio, ma la seconda parte è importante che interveniate voi. Ecco allora lo spazio alle domande, a brevi riflessioni da parte vostra sul brano che insieme commentiamo, perché come abbiamo già notato nelle trasmissioni scorse, a volte i vostri interventi, i vostri interrogativi permettono di cogliere degli scorci che altrimenti non emergerebbero. E a volte sono proprio quelli il valore aggiunto, la caratteristica più ricca di queste nostre trasmissioni. Quindi vi invito fin d'ora ad avere questa disponibilità. Se sentite nascere una domanda, se sentite nascere una riflessione, vi prego di condividerla. Quanti di voi sono nella possibilità di farlo, vi prego di prendere in mano un'edizione della Bibbia e di aprirla al capitolo 16 del Vangelo di Marco. Per gli altri invece che sono in viaggio, che si trovano in ospedale, che magari stanno ascoltando nelle situazioni più diverse, invito semplicemente a questo ascolto con la disponibilità di intervenire poi attraverso domande o riflessioni. Bene, ci disponiamo subito all'ascolto della parola di Dio chiedendo allo Spirito e a Maria di accompagnarci in questa nostra trasmissione. Il brano a cui ci dedichiamo oggi va dal capitolo 1 al capitolo 8. Era la finale più antica del Vangelo di Marco. all'inizio dell'era cristiana, quindi attorno, se vogliamo, il 70 d.C., tra il 60 e il 70 d.C., gli 8 versetti che noi ascolteremo questa sera e commenteremo questa sera costituivano la finale del secondo Vangelo, la finale del Vangelo di Marco. Ascoltiamo questi 8 versetti. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Molto presto, il primo giorno della settimana, al sorgere del sole, vennero al sepolcro. Dicevano tra sé: chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo videro che la pietra era già stata rotolata via. Era una pietra molto grande. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto alla destra, avvolto in una veste bianca, e si spaventarono. Egli disse loro: non spaventatevi, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi aveva detto. Uscite, esse fuggirono dal sepolcro. Erano infatti piene di terrore e disorientamento. E non dissero niente a nessuno, erano infatti intimorite. Ecco, questo brano lo possiamo suddividere in tre momenti, e saranno un po' i tre momenti in cui scandiremo questa prima parte della nostra trasmissione. Un primo momento che ha come protagonista le donne, un secondo momento che ha come protagonista il giovane, il terzo momento che ha un pochino al centro della scena è il versetto conclusivo dell'intero Vangelo, il versetto 8. Cominciamo con il primo momento. Il primo momento, vi dicevo, ha per soggetto, per protagonista, le tre donne che si presentano sulla scena. Rileggiamo un attimo questi versetti, sono i versetti da 1 a 4. Marco scrive: passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Molto presto, il primo giorno della settimana, al sorgere del sole, vennero al sepolcro. Dicevano tra sé: chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, videro che la pietra era già stata rotolata via. Era una pietra molto grande. Ecco, in questa prima scena, se voi siete un pochino stati attenti alla modalità narrativa di Marco, noterete che lo stile di Marco punta sull'elemento ternario, cioè per tre volte viene sempre ripetuto un elemento. Tre sono le donne che si presentano al sepolcro: Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome. Tre sono gli indicatori che dicono l'inizio del giorno: molto presto, il primo giorno della settimana, al sorgere del sole. Tre solo le menzioni della pietra: chi ci rotolerà via la pietra? Alzando lo sguardo videro che la pietra era già stata rotolata via, era una pietra molto grande. Quindi notate, per tre volte torna l'elemento ternario. Cosa significa? Significa che l'evangelista vuole dare una particolare sottolineatura ad alcuni aspetti. E l'elemento che qui emerge in modo forte è, da un lato, l'elemento della morte, che emerge dal sepolcro, dalla ripetizione del concetto del sepolcro e della pietra, la pietra come sigillo del sepolcro, il sepolcro come evocazione della morte. Dall'altro, l'elemento della speranza, e l'elemento della speranza emerge in quella sottolineatura dell'alba, che avviene attraverso quel triplice indicatore: che era molto presto, che era il primo giorno della settimana, che tutto questo avveniva al sorgere del sole. Quindi da un lato c'è qualcosa che chiude, che sigilla la scena, la pietra, il sepolcro, la morte; dall'altra c'è l'elemento invece della vita, il mattino presto, il sorgere del sole, il primo giorno della settimana, tutti elementi che indicano un inizio nuovo, che sembra quasi fare da tensione con il sepolcro e la pietra che sigilla, una storia che sembra ormai finita. Bene, le tre donne si trovano in mezzo a questa scena. Da un lato abitano il principio del giorno con tutte le sue promesse, cioè la luce che sorge, il primo giorno della settimana, dall'altro sono abitate dalla morte perché si recano al sepolcro per ungere Gesù, cioè per compiere quei riti che caratterizzavano normalmente il momento precedente la sepoltura, ma che non era stato possibile fare con Gesù perché si era fatto tardi e iniziava un giorno solenne che era il giorno di il grande Shabbat pasquale, per cui iniziando quel giorno solenne l'avevano dovuto seppellire subito, mettere subito nel sepolcro senza compiere i riti comuni legati alla sepoltura. Ora, questi indicatori che Marco mette all'interno del suo racconto sono stati visti dagli studiosi come un richiamo ad alcuni testi dell'Antico Testamento, soprattutto la menzione del sorgere del sole nel momento in cui le donne si accostano al sepolcro, sono stati visti come dei richiami ad alcuni passaggi delle scritture antiche molto significativi. Tra questi passaggi se ne richiamano normalmente tre. Il primo passaggio è il libro tratto dal libro dei Numeri, capitolo 24, versetto 17. Siamo in un momento molto difficile della storia di Israele, quando Israele viene quasi maledetto da un mago molto potente del tempo, un certo Balaam, e mentre il re del popolo nemico porta Balaam in cima al monte, sotto sta il popolo di Israele accampato, lo porta in cima al monte per portare la maledizione sul popolo, dalla bocca di questo mago, al posto di uscire parole di maledizione, escono parole di benedizione. Il mago non riesce a controllare la sua parola. E le parole di benedizione che lui pronuncia su Israele dice così: io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino, un astro spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. E poi racconta che questo scettro dominerà i popoli. Quindi siamo in un contesto in cui un mago dovrebbe proclamare un verdetto di morte sul popolo attraverso una parola di oscurità, una parola di maledizione, e questa parola di maledizione si trasforma in un segno di benedizione, sotto il segno di un astro che sorge. Ecco allora questo astro che sorge del capitolo 24 di Numeri viene ritrovato in questa pagina di Marco 16, questa pagina che abbiamo letto, quella al sorgere del sole vennero al sepolcro. Allora gli esegeti dicono, ecco qua viene richiamata una pagina dell'Antico Testamento dove un'attesa di morte viene trasformata in un risvolto di vita, la maledizione diventa benedizione. Le donne vengono al sepolcro con l'idea di ungere un corpo morto e invece se ne torneranno dal sepolcro con un annuncio di risurrezione. La maledizione si trasforma in benedizione. Altri vedono invece in questi versetti marciani un richiamo a un altro profeta, che è il profeta Malachia. Il profeta Malachia è quello dei 12 profeti che chiude le scritture antiche nel canone cristiano, è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Al capitolo 3 del libro di questo profeta, del libro del profeta Malachia, al versetto 20, c'è questa profezia. Malachia dice: sta per venire il giorno del Signore. Per voi che avete timore del mio nome, questo giorno del Signore sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Ecco, è interessante, se voi andate a leggere il capitolo 3 del profeta Malachia, dove lui annuncia e profetizza l'arrivo del giorno del Signore, noterete che questo giorno del Signore è un giorno di tenebre per i nemici, è un giorno di morte per i nemici. Per invece coloro che sono benedetti e che seguono il Signore, è un giorno che si trasforma da tenebre in luce e il sole che sorge è il Messia, che viene paragonato al sole che sorge e che con il tepore, con la promessa di questo sole che sorge, fa uscire dalla schiavitù tutto il popolo di Israele utilizzando l'immagine dei vitelli saltellanti che escono dalla stalla, un'immagine molto plastica, molto evocativa. Ecco allora che anche in questo caso quell'arrivo delle donne al sepolcro sorgere del sole richiamerebbe questa profezia, cioè il sorgere del sole è un anticipo di quello che le donne si troveranno davanti, non un corpo morto, ma un giovane che esce dal sepolcro saltellante come i vitelli dalla stalla, all'insegna di quell'annuncio di risurrezione che tra poco commenteremo. Altri ancora vedono qui un richiamo a un salmo, il Salmo 110. Salmo 110 è quel salmo che viene pregato tutte le domeniche nei Vespri, dove sentiamo, dove si dice: oracolo del Signore al mio Signore, a te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Cioè il Messia che viene unto dal Signore come re sul popolo viene paragonato al sole che nasce dal seno dell'aurora e che viene generato come l'aurora, come la rugiada. Ecco, è quello che avviene il mattino, il primo giorno della settimana. L'annuncio della risurrezione sorge come il sole e si presenta come rugiada che viene generata dall'aurora. Quindi vedete tre passaggi antico-testamentari, uno dalla Torah, uno dai profeti, uno dagli scritti, le tre parti delle scritture antiche, che sembrano quasi darsi tra loro la mano per gettare una luce significativa su questo brano. Bene, in mezzo a questo si trovano le donne. Per le donne la fatica più grande è rimuovere la pietra. E qua vorrei sostare un attimo in riflessione, cioè la prima parte di questo brano richiama una pietra. La preoccupazione delle donne non è tanto ungere il corpo di Gesù, ma muovere la pietra. Quante volte il nostro cammino umano o spirituale è per certi versi bloccato da pietre che stanno a sigillare qualcosa, pietre che possono essere pensieri, pietre che possono essere ansie, pietre che possono essere esperienze passate, pietre che possono essere sofferenze del tempo presente. Ecco, per vivere l'esperienza pasquale ed entrare in questa logica di promessa che emerge da questo testo, è necessario togliere, rimuovere la pietra. Quindi l'annuncio pasquale viene portato dall'Evangelista come preceduto da un gesto che non dipende dalle donne, ma dipende da un dono che viene dall'alto. E questo dono che viene dall'alto è un dono che rimuove questa pietra che pesa non solo sul sepolcro, ma che pesa anche sul cuore di queste donne. E mi piace allora concludere questa riflessione sui primi quattro versetti di questo capitolo, quindi questa prima parte della nostra riflessione, con un testo di Monsignor Tonino Bello. Sapete, questo vescovo di Molfetta in atto la causa di beatificazione, che ha delle riflessioni stupende sulla parola di Dio, sull'esperienza ecclesiale, è un vero profeta del nostro tempo, ha delle riflessioni stupende perché aveva una vita spirituale intensa, stupenda, e lui riflettendo proprio su questo brano e rivolgendosi a Maria quasi in una sorta di preghiera, così dice: Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia, rimuovi le pietre che bloccano i nostri sepolcri. Non aspettare i chiarori dell'alba, non attendere che le donne vengano con gli unguenti. Quando le altre Marie arriveranno nel giardino con i piedi umidi di rugiada, ci trovino già desti e sappiano di essere state precedute da te, l'unica spettatrice del duello tra la vita e la morte. La nostra non è mancanza di fiducia nelle loro parole, ma ci sentiamo così addosso la pietra del sepolcro che la loro testimonianza non ci basta. Essi hanno visto, sì, il trionfo del vincitore, ma non hanno sperimentato la sconfitta dell'avversario. Solo tu ci puoi assicurare che la morte è stata uccisa davvero. Solo tu puoi rimuovere la pietra che pesa sul nostro sepolcro. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che nonostante tutto la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati, che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari, che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli, che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari, che la noia, la solitudine e la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni, e che finalmente le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciugate come la brina del sole della primavera. Santa Maria, rimuovi la pietra del sepolcro. Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dai volti il sudario della disperazione e arrotola per sempre in un angolo le bende del nostro peccato. Molto bella questa preghiera di Monsignor Tonino Bello, che ci invita a prendere proprio come compagna di viaggio Maria nel nostro accostarci a Gesù, perché quel primo gesto necessario per vivere la Pasqua sia compiuto, il gesto di rimuovere la pietra dal sepolcro. Noi da soli non ce la facciamo, ma lei lo può fare, e rimuovere quella pietra è indispensabile per vivere, per sentire, per sperimentare quell'annuncio di speranza che sgorga dal sepolcro vuoto. Ecco, lasciamo un breve spazio di breve stacco musicale in modo da rileggere questi quattro versetti e poi continuare con il secondo approfondimento. Il primo momento abbiamo visto ha come protagonista le donne, nel secondo andremo a incontrare un altro protagonista, incontreremo il giovane, ma lasciamo un breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella nostra riflessione. Dopo aver riflettuto sui primi quattro versetti, continuiamo nella nostra lettura, nel nostro commento, riflettendo insieme sul secondo momento di questo racconto. Il secondo momento, vi dicevo, passa dalle tre donne al giovane. Allora, riascoltiamo i versetti dal 5 al 7 che descrivono la scena. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, avvolto in una veste bianca, e si spaventarono. Egli disse loro: «Non spaventatevi, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove lo avevano posto. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi aveva detto». Ecco, il secondo scenario vede entrare in scena questo giovane. Prima domanda da farsi è: chi è questa figura? Va subito sottolineato che Marco non mette in scena un angelo. Questo giovane non è un angelo, altrimenti lo avrebbe chiamato un angelo, altrimenti avrebbe detto chiaramente che al sepolcro quella mattina c'era un angelo, come in altri momenti della narrazione mette in scena un angelo. Quindi il termine utilizzato tra l'altro in greco, neaniskos, indica un giovane che non ha ancora fatto la scelta definitiva della sua vita. Quelli che trasformano questo racconto in una apparizione angelica sono gli altri due Vangeli, Matteo al capitolo 28 e Luca al capitolo 24. Marco no, Marco volutamente mette sulla scena la figura di un giovane. Ora, il termine preciso con cui lui indica questo giovane è particolare perché viene utilizzato due sole volte non solo nel suo Vangelo, ma in tutto il Nuovo Testamento. Noi il termine neaniskos lo troviamo solo in Marco, al capitolo 14 e al capitolo 16 del suo Vangelo. Al capitolo 14 avevamo incontrato questo giovane nel momento dell'arresto di Gesù al Getsemani, quando ci veniva detto che nel momento in cui Gesù venne afferrato dalle guardie, tutti fuggirono, tranne un giovane che cercava di seguirlo da lontano. Le guardie, accortosi di questo, afferrarono il giovane per il mantello di cui era ricoperto e questo giovane, lasciando il mantello nelle mani dei soldati, fuggì via nudo. Ecco, questa era la scena che veniva presentata al capitolo 14. Tra l'altro è una scena così curiosa che su di essa hanno sostato tanti studiosi lungo la storia, studiosi famosi e studiosi meno famosi. Ci sono diversi commenti di ogni tipo all'interno della letteratura a commento del Vangelo. Pensate, persino uno scrittore e poeta laico come Gabriele D'Annunzio, di fronte a un simile episodio, si sentì in dovere di fare queste annotazioni. Non avete mai pensato chi potesse mai essere quel giovane dal quale parla il Vangelo di Marco? Chi era quel tredicesimo apostolo che aveva assunto il posto di Giuda nell'ora dello spavento e della grande angoscia? Era vestito di un vestimento leggero, fuggì ignudo, nulla più si seppe di lui nel mondo. Questo scrive D'Annunzio in uno dei testi in cui si sofferma sulla pagina della risurrezione. Bene, questo giovane lo ritroviamo nel momento della risurrezione. Colui che era fuggito lasciando il suo mantello, ora lo ritroviamo non in fuga, ma seduto alla destra, non nudo, ma rivestito di una veste bianca, non silenzioso, ma capace di annunciare la risurrezione. Quasi a dire che la risurrezione riesce a farsi strada nel mondo attraverso la testimonianza concreta di chi ha vissuto su di sé il mistero pasquale. Questo giovane, in altre parole, è il discepolo, è uno dei discepoli che ha vissuto su di sé la trasfigurazione legata al discepolato, la trasfigurazione di trovarsi a tu per tu di fronte al grande dono di Cristo sulla croce. Questo lo ha cambiato. E quando uno sperimenta il cambiamento dentro di sé, riesce a comunicarlo agli altri. Ecco perché la sua vita diventa un annuncio, tutto di lui diventa un annuncio. Ed è significativo il modo in cui viene descritto. Ci sono tre tratti che caratterizzano il giovane presentato da Marco. Il primo tratto è la posizione, il giovane seduto alla destra. Noi sappiamo che nella tradizione biblica essere assisi alla destra significa partecipare del potere, della gloria di colui accanto al quale si è seduti. I re, i governanti, avevano seduti alla destra i primi consiglieri, i viceré, oppure avevano seduti alla destra la regina, che era in qualche modo la prima portavoce del re. Ugualmente i primi consiglieri di una persona nobile erano sempre seduti alla destra. Sappiamo che nel corso del Vangelo Giacomo e Giovanni si erano presentati a Gesù chiedendo un posto alla destra. Quindi essere assiso alla destra significa partecipare del potere di colui che si rappresenta. Ora, il giovane, all'interno di una tomba vuota, con la pietra che è stata spostata in modo misterioso, assiso alla destra, cosa indica? Indica che questo giovane già partecipa del potere di chi ha sconfitto la morte. Non solo, questo elemento da solo non basterebbe. Il giovane seduto alla destra è avvolto in una veste bianca. Il termine che viene qui utilizzato, se noi lo traducessimo alla lettera, dovrebbe essere avvolto in una stola bianca, stolene leuken, dice il testo greco. La stola è l'indumento ancora una volta, del potere. Il bianco rimanda al colore della risurrezione, della trasfigurazione. Tra l'altro, proprio il concetto del bianco era stato molto evidenziato, enfatizzato nella narrazione di Marco al capitolo 9, quando venne raccontato l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Terzo elemento che caratterizza la descrizione di questo giovane è la sua parola. È un giovane che parla molto. Lungo i Vangeli non si sono incontrate persone che parlavano molto, che portavano diversi annunci. La persona che porta più annunci in assoluto, che non sia uno dei dodici o che non sia Gesù, all'interno del racconto del secondo Vangelo, è questo giovane. Quindi uno che partecipa al potere di Cristo e che lo trasmette proprio attraverso l'annuncio della risurrezione. Il suo invito è un invito ad andare oltre, ad andare altrove. Le donne si presentano al sepolcro con pensieri di morte, vogliono ungere un cadavere, con pensieri sulla pietra, chi ci rotolerà via la pietra, con pensieri sul sepolcro, la pietra dal sepolcro. Quindi sono caratterizzati da elementi di morte. Il giovane entra in scena portando in questa scena delle donne che è abitata dalla morte tutta un'irruzione di luce. Il suo modo di vestire è luminoso, vestito di bianco, la sua posizione è luminosa, è seduta alla destra, la sua età è luminosa perché è un giovane e quindi rappresenta tutto il futuro, le sue parole sono luminose perché iniziano con un non temete. Ricordiamo che in tutta la narrazione biblica le scene che iniziano con un non temete, non spaventarti, non spaventatevi, sono sempre scene di vocazione, dove viene affidata una vocazione forte a coloro che sono chiamati in causa. Ricordate Abramo, non temere Abramo, a te Dio darà una grande discendenza in questa terra. Ricordate Mosè sull'Oreb, non temere Mosè. Ricordate la stessa figura di Giuseppe nel momento in cui aveva paura di prendere con sé Maria, gli appare in sogno un angelo che gli dice non temere Giuseppe, perché colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. La stessa Maria, non temere Maria, al momento dell'annunciazione. Tutte scene che sono legate a una grande vocazione. Quindi l'Evangelista sta dicendo ai suoi lettori che nel momento in cui si confrontano con il mistero di Gesù e con il suo mistero di passione, morte e risurrezione, è il momento in cui viene affidato loro un grande mandato. E questo mandato è quello che scaturisce dalle parole del giovane. Voi cercate Gesù in Nazareno che è stato crocifisso. Quindi la ricerca è legata a un uomo che ha vissuto una storia che è finita in croce. È risorto, non è qui, ecco il luogo dove lo avevano deposto. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Il giovane non dice alle donne di andare a chiamare gli apostoli e di farli venire al sepolcro. C'è chi farà così, Maria di Magdala farà così. Ma quel giovane non dice di andare a chiamare Pietro e Giovanni e di farli venire al sepolcro. Dice alle donne di andare dai discepoli e da Pietro dicendo loro di andare in Galilea. Perché Gesù li aspetta in Galilea. Come mai Gesù, che potrebbe farsi vedere nel cenacolo, che potrebbe farsi vedere nel giardino della tomba, manda i suoi in Galilea? Come mai? Perché è necessario rivivere tutta l'esperienza fatta in un'ottica nuova. Finora, dalla Galilea a Gerusalemme, i discepoli hanno vissuto l'esperienza del discepolato secondo l'ottica dei discepoli del primo secolo, vedendo in Gesù un maestro un po' particolare, ma pur sempre un maestro. Ora, alla luce di quello che Gesù ha vissuto, la sua passione, la sua morte, con la fatica di accettare lo scandalo della croce e la sua risurrezione, sono chiamati a ripercorrere tutto quel cammino, a interiorizzarlo in una prospettiva nuova, che è la prospettiva della pietra rotolata via. E rileggendo, rivivendo questa esperienza in un'ottica nuova, possono diventare anche loro come quel giovane, possono diventare anche loro da persone nude, spoglie, perché tutti sono fuggiti come quel giovane, in persone assisi alla destra, rivestite di bianco, capaci di annunciare la risurrezione. È molto forte l'immagine e il mandato che questo giovane dà alle donne. Allora, abbiamo visto le donne che arrivano al sepolcro nella prima scena, il giovane nella seconda scena, ci resta il versetto finale. Anche qui, prima di arrivare al versetto finale, facciamo ancora un breve stacco musicale in modo che abbiate la possibilità di rileggere un attimo questi tre versetti dal 5 al 7, dopodiché commenteremo insieme il versetto 8, che è motivo oggi di grande dibattito tra gli studiosi del Vangelo di Marco. Quindi un breve stacco musicale. Ecco, allora, nella nostra riflessione stiamo vedendo questi tre momenti della pagina conclusiva del Vangelo di Marco. Abbiamo visto nel primo momento le donne si recano al sepolcro, sono le tre donne, portano in sé questi pensieri di morte, sono raggiunti da tanti segnali di speranza che non riescono a cogliere. E l'immagine della pietra che deve essere rimossa dal sepolcro è un po' l'immagine chiave. La seconda scena vede l'irruzione in scena di questo giovane che riempie di luce la scena della risurrezione, ma dà un mandato preciso a queste donne, che è quella di andare a chiamare i discepoli e Pietro per mandarli in Galilea, non per farli venire al sepolcro. E veniamo all'ultima scena, che è un solo versetto che ci dice però come va a finire questo episodio. Ascoltiamo il versetto 8. Uscite quindi dalla tomba, esse fuggirono dal sepolcro, erano infatti piene di terrore e disorientamento e non dissero niente a nessuno, erano infatti intimorite. Ecco, questo è il versetto finale del Vangelo di Marco, un versetto che lascia perplessi, tanto vero che sin dai primi secoli, dopo il 70, praticamente attorno all'85, noi abbiamo già un'aggiunta alla finale del Vangelo, quelli che trascrivevano i Vangeli si sentirono in dovere di non permettere al secondo Vangelo di chiudersi così, perché com'è possibile? C'è l'annuncio della risurrezione, ci sono le donne che sono andate al sepolcro, ricevono un mandato preciso e queste fuggono e non dicono niente a nessuno. Ma com'è? Com'è possibile che un lieto annuncio finisca così? Eppure, questa era la finale più bella e più provocatoria tra i quattro Vangeli che noi abbiamo tra le mani. Dico sempre che nella lettura del secondo Vangelo noi dovremmo proprio fermarci qui, perché questa finale di Marco chiama in scena l'ascoltatore o il lettore. Se noi siamo attenti a questa finale, viene spontanea una domanda. Se le donne non hanno detto niente a nessuno, chi è che si è fatto carico dell'annuncio della risurrezione? Chi l'ha portato l'annuncio della risurrezione? L'ha portato sicuramente quel giovane. Hai visto che le donne, prese dalla fuga, prese dal terrore, prese dal disorientamento, non dissero niente a nessuno, sicuramente l'annuncio della risurrezione è stato portato da quello stesso discepolo. Ma ora, nel momento in cui noi ascoltiamo, mettiamoci dalla parte di chi ascolta o di chi legge il secondo Vangelo e si trova davanti a questa scena finale. È chiaro che l'Evangelista sta dicendo a chi ascolta e a chi legge, guarda che se le donne non hanno detto niente a nessuno, tocca a te intervenire. Perché se tu non assumi questo mandato di ripercorrere la tua storia insieme agli undici e a Pietro, di ripercorrere tutta la tua esperienza alla luce della passione, morte e risurrezione di Gesù, l'annuncio pasquale non può percorrere il mondo. Cioè l'Evangelista chiama in scena il lettore e l'ascoltatore, perché possano vivere, essere loro i primi a sperimentare questo mandato. Ora, gli esperti del Vangelo di Marco si sono arrampicati sui vetri per dare una lettura positiva delle donne, che non c'è. In questo versetto finale le donne non fanno una bella figura nel Vangelo di Marco, per un semplice motivo: nel Vangelo di Marco tutti i discepoli, compresi i dodici, comprese le donne, devono passare da un'esperienza di fallimento, devono, sottolineo questo verbo, perché nella teologia di Marco è così. L'esperienza di fallimento è necessaria perché l'uomo sperimenti la sua povertà, la sua nudità e si senta raggiunto dall'amore di Dio in quella esperienza. E solo come risposta all'amore sovraeminente di Dio diventa poi colui che annuncia la risurrezione. Le uniche persone che nella narrazione di Marco non avevano ancora fallito erano le donne, ma ecco che l'Evangelista le aspetta al varco. Nel momento in cui sono chiamate a portare l'annuncio della risurrezione, esse deludono, come hanno deluso i dodici, e deludono allo stesso modo, sotto il segno della fuga, della paura, del disorientamento. Sono gli stessi verbi che caratterizzano il fallimento dei dodici, la fuga, la paura, il disorientamento. Ecco allora che chi rimane sulla scena? Rimane chi, dopo aver vissuto l'esperienza di fallimento, riesce a sentirsi comunque raggiunto dall'amore di Cristo e a diventare, a lasciarsi trasfigurare da questo amore. Ricordiamo, nelle parole del giovane c'è un'attenzione delicatissima per la figura di chi ha rinnegato tre volte. Andate a dire ai miei discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Pietro ha un posto speciale, un posto di maggiore responsabilità nella comunità, come già era emerso durante il ministero pubblico di Gesù. Una finale quindi che da un lato scandalizza, ma dall'altro chiama in causa. Da un lato sembra lasciare sospeso il racconto, ma dall'altro porta a compimento una teologia, quella dell'Evangelista Marco, che dà un significato a quelle pagine di fallimento che si sono incontrate anche durante il ministero pubblico. Del resto, diciamocelo chiaro, chi scrive, se è Marco conosciuto attraverso le pagine degli Atti degli Apostoli, è proprio uno dei discepoli della prima ora che l'esperienza del fallimento l'ha vissuta in modo molto forte. Ricordate, Marco è stato uno dei primi che insieme a Barnaba ha vissuto l'esperienza dell'annuncio cristiano, insieme a Barnaba e a Saulo. Ma nel momento in cui Paolo insieme a Barnaba cominciavano a prendere le vie del mondo pagano, scandalizzato fece dietro fronte. E il suo passo causò la separazione e la lite tra Paolo e Barnaba, al punto tale che i due si dovettero separare. Solo alla fine dell'esistenza di Paolo, Marco viene in un certo senso reintegrato nella fiducia. Il fatto che questo lo ritroviamo scritto nei testi sacri significa che aveva proprio scottato questa figura. E lo troviamo, questo elemento di questa scottatura, questa ferita, la ritroviamo all'interno del suo Vangelo. Tutti evidenziano che nessun evangelista come Marco mette così in evidenza le debolezze dei discepoli, proprio per dimostrare che la debolezza dell'uomo, se posta nelle mani di Dio e se da parte dell'uomo c'è la disponibilità a lasciarsi mettere in discussione dall'amore di Dio, la debolezza dell'uomo può diventare una grande potenza. Dal sepolcro che porta dentro di sé ombra di morte può scaturire un messaggio di luce e di speranza che rimuove ogni pietra. È questo l'annuncio finale del Vangelo di Marco, anche se poi i secoli successivi hanno aggiunto un'altra finale, che sarà quella su cui sosteremo nelle prossime puntate. Ecco, cari ascoltatori, questa sera abbiamo condiviso questi 8 versetti, ora è un pochino il vostro turno. Lasceremo adesso uno spazio musicale un pochino più lungo, in modo che ciascuno di voi ascoltatori possa porre le proprie domande, possa intervenire con brevi riflessioni, in modo da arricchire ulteriormente questa trasmissione. Ricordo sempre il detto dei maestri dell'ebraismo, che secondo i quali, ecco, in una scuola rabbinica lo studente più bravo non è quello che sa più cose, ma è quello che sa porre più domande, sa interrogare maggiormente il testo. Quindi è nella misura in cui sapremo, ecco, porre domande adeguate o fare emergere le domande che sorgono all'interno del nostro cuore, che questa nostra ora e mezzo insieme porterà frutto. Resto quindi in attesa dei vostri interventi e lasciamo spazio a un altro stacco musicale. Pronto? Pronto, buongiorno Don Giacomo. Buongiorno. Io mi chiamo Cristian e telefono da Perosa, Argentina. Volevo chiedere un'informazione. Lei ha detto a proposito del Vangelo di Marco che c'è stata una forma di sconfitta per tutti gli uomini praticamente, giusto? Sì. E per tutte le donne. E Cristo Redentore, quando subentra nei Vangeli, leggendo i Vangeli in ordine praticamente? Non ho capito la domanda, può? In poche parole, Marco ci mette di fronte al fatto che siamo tutti sconfitti, gli altri evangelisti invece scrivono diversamente. Volevo chiedere, il Cristo Redentore, in che momento subentra nel Vangelo di Marco, in poche parole? Va bene. Lei chiama dall'Argentina, è giusto? No, da Perosa, Argentina, in provincia di Torino. Ah, di Torino, perfetto. La ringrazio, Cristian. Sì, mi ascolti pure per radio. La ringrazio Cristian per la sua domanda. Allora, noi dobbiamo distinguere, ovviamente ogni evangelista nel momento in cui costruisce la trama della sua narrazione, porta dentro di sé una propria teologia. Una propria teologia, cioè un messaggio che gli sta particolarmente a cuore. Nel racconto di Marco, uno dei messaggi, dei fili rossi che stanno particolarmente a cuore a Marco è il riscatto che caratterizza il discepolato cristiano, cioè Gesù riesce a sconfiggere ogni sorta di situazione negativa, comprese le situazioni di fallimento. Ora, la massima esperienza di tutto questo avviene nel mistero pasquale, sotto l'emblema di questo giovane che apre il mistero pasquale al capitolo 14 e lo chiude, lo porta a compimento, si può dire, al capitolo 16. Quindi il grande segno di questo riscatto, il grande segno di questa redenzione portata in scena è il giovane, anche se ci sono tanti piccoli episodi che lo annunciano in altri momenti. Ora, il fatto che questo messaggio sia tipico di Marco non significa che non ci sia negli altri Vangeli, basta prendere in mano anche solo il Vangelo di Luca. Luca lo esprime in un altro modo, in Luca questo riscatto, questa immagine della redenzione passa sotto il segno della misericordia. Ecco, identificare un momento in cui questo avviene preciso, non direi che non è possibile farlo, è possibile farlo, però resta un pochino maldestro. Direi che se noi prendiamo tutti e quattro i Vangeli insieme, il momento in cui entra in scena il mistero della redenzione è il momento dell'incarnazione, non c'è dubbio. Cioè il momento dell'incarnazione è il momento del riscatto della debolezza. Perché? perché Dio assume ciò che è debole. Nel momento della incarnazione, Dio prende carne, il Verbo si fece carne, assumendo la carne nella sua povertà massima, assume la carne nell'immagine di un feto, di un bambino che cresce, di un bambino che nasce nudo, che ha bisogno di crescere, che non sa parlare, che ha bisogno di imparare a controllarsi, che ha bisogno di essere formato, tutti elementi che dicono la fragilità dell'essere umano. Eppure in questa fragilità dell'essere umano abita la potenza in assoluto. Ciò che sembra fallimentare, esposto alla morte, è carico di vita. Penso che se volessimo, come Cristian, individuare un momento all'interno della narrazione dei quattro Vangeli in cui rompe in scena il Redentore, ecco, il momento vero e proprio è quello della incarnazione. Anche se non è che questo spunta sulla scena in modo improvviso, assolutamente no. È preparato da una lunga storia. In tanti episodi antico-testamentari questa storia risplende. In questo momento, mentre parlavo, mi veniva in mente una scena che ieri ho commentato durante l'omelia della domenica, ed è la scena del re Davide, di Davide, quando Davide sconfigge Golia. Quando Davide sconfigge Golia, Saul cosa fa? Saul lo riveste dell'armatura, gli dà tutte le sue armi in pugno, e Davide a un certo punto si rivolge a Saul dicendo: senti, se io devo andare a combattere contro Golia in questo modo non ce la farò mai, perché non riesco a muovermi. Quindi si toglie l'armatura, lascia cadere le spade e le armi che sono più pesanti di lui e si presenta con una fionda e 5 sassolini ben levigati. Con la fionda e 5 sassolini ben levigati, questo giovane che viene deriso dall'altro perché è l'emblema della debolezza e del fallimento annunciato, riesce a sconfiggere Golia, perché la pietra, una di queste pietre gli si inficca sulla testa, e con Golia sconfigge tutto l'esercito dei Filistei. È una piccola scena che dice però già come il percorso della rivelazione antico testamentaria già più volte diceva questo. Pensiamo anche alla rivelazione di Dio a Elia sull'Oreb: non nel fuoco, non nel terremoto, non nella tempesta, ma nel soffio di un vento leggero, nel silenzio, nel soffio silenzioso di una brezza. Ecco, lì si manifesta Dio, cioè là dove c'è l'emblema, se volete, della debolezza, c'è tutta la potenza di Dio. Grazie Cristian, perché effettivamente questo è uno dei messaggi chiave del secondo Vangelo. Pronto, con chi parlo? Buonasera, sono Carlo da Verona. Volevo chiedere per favore se poteva spiegare ancora il significato del secondo punto, cioè del vi precederò, andate in Galilea dove Gesù vi precede. Ecco, se poteva ancora soffermarsi su questo aspetto. Certo, certo. Grazie. Grazie a te Carlo per questo intervento. Nel momento in cui il giovane si rivolge alle donne, la sua parola alle donne ha un messaggio ben preciso. Dopo aver spiegato, dopo aver sintetizzato il ministero pubblico di Gesù, voi cercate Gesù, il Nazareno, in quel Nazareno c'è tutto il suo ministero pubblico, che è stato crocifisso, c'è tutto il suo racconto della passione. Poi l'annuncio forte: è risorto, non è più qui, ecco il luogo dove lo avevano deposto. Si apre il futuro, e il futuro qual è? Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi aveva detto. Allora, qui ci sono due messaggi forti da parte dell'Evangelista. Il primo messaggio forte è quello della fedeltà del Signore. Il Signore aveva promesso al capitolo 14 ai discepoli che li avrebbe preceduti in Galilea. Praticamente siamo al capitolo 14, versetto 27. Gesù disse a loro: voi tutti vi scandalizzerete, poiché sta scritto: percuoterò il pastore, le pecore si disperderanno, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Quindi Gesù aveva fatto una promessa, questa promessa, che è l'ultima promessa che Gesù ha fatto ai suoi prima di essere arrestato, è la prima parola che viene richiamata alle donne. Quindi, in altre parole, quelle donne non erano presenti nel momento in cui Gesù ha detto queste cose ai discepoli. Quindi il fatto che le donne vadano e dicano ai discepoli: vi precedi in Galilea come vi aveva detto, se loro portano questo annuncio è importante per i discepoli, perché è un segno, è come un codice segreto che decodificano subito. Capiscono che questa parola non può essere venuta da uno qualsiasi, deve essere venuta proprio dal Signore, perché è il Signore che l'aveva detto a loro, e non c'erano le donne in quel momento. Quindi c'è lì un segno decodificatore che dice la fedeltà del Signore. Dio ha fatto una promessa, quella promessa si compie. Ma c'è un altro elemento, e questo altro elemento è il fatto che partire, andare da Gerusalemme in Galilea, che non è dietro l'angolo, ci vuole come minimo 2 giornate di cammino per arrivare fino in Galilea. Dietro questo cammino c'è prima di tutto un atto di fede e poi un invito a ricominciare da capo. Ora, che cos'è il ricominciare da capo se non l'essere capaci di non lasciarsi sconfiggere dal fallimento? Chi è che fallisce nella storia? È chi non se la sente più di ricominciare, dice oramai basta, oramai è finita. Chi è invece che sconfigge il fallimento è colui che dice: ok, ho perso ora, ma posso vincere domani. E quindi si rialza e riprende il cammino. E la forza della risurrezione è quella di ripercorrere tutto il cammino del discepolato in un'ottica nuova. I discepoli hanno bisogno di un secondo discepolato. Guardate che Luca esprime le stesse cose in un altro modo. Se voi andate a leggere il Vangelo di Luca, notiamo che Gesù, dopo la sua risurrezione, cosa dice ai discepoli? In quel caso non gli dice andate in Galilea, perché Luca ha un'altra teologia che è tutta centrata sulla città di Gerusalemme. Per Luca Gerusalemme è il cuore dell'annuncio, e per Marco invece è l'apertura alle genti il cuore dell'annuncio. Sono 2 prospettive diverse. Quindi Gesù dice ai suoi discepoli in Luca: non allontanatevi da Gerusalemme, altro che andare in Galilea, non allontanatevi da Gerusalemme, state qui finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E li rimanda ad aspettare il dono dello Spirito Santo. 40 giorni Gesù sta in mezzo a loro insegnando e istruendoli da risorto. Quindi, vedete, per Luca è importante che ci sia una seconda formazione dopo la risurrezione, che dura 40 giorni prima che Gesù ascende al cielo. In Marco no. In Marco questa seconda formazione è il ripercorrere tutti gli episodi del discepolato nell'ottica nuova. Quindi Gesù riaspetta i suoi in Galilea per chiedere il secondo sì, la seconda vocazione. E ancora una volta mi piace ricordare, no, questa profonda sintonia tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Se voi andate nell'Antico Testamento, notate che nell'Antico Testamento per alcuni personaggi importanti succede la stessa cosa. Andate a vedere Elia. Elia, quando fa quei 40 giorni di cammino per arrivare all'Oreb. Basta arrivare all'Oreb per capire chi è Dio, no? Perché dopo la rivelazione di Dio sull'Oreb, in quel soffio di silenzio, guardate che Elia non è cambiato più di tanto. Dio gli deve dire: torna da dove sei arrivato, altri 40 giorni. E solo dopo quegli altri 40 giorni Elia sarà pronto per fare il profeta e per ungere altri. Cioè il suo ruolo profetico, la sua professione profetica diventerà feconda, al punto che dopo quegli altri 40 giorni di cammino ungerà un altro profeta dopo di lui, Eliseo. Ma c'è bisogno di, come dire, un duplice percorso. Pensate a Mosè. Ricordate l'episodio del dono delle tavole della legge. Quante volte vengono date le tavole della legge al popolo di Israele? Una sola volta, no? 2 volte. C'è come bisogno di un'esperienza ripetuta perché la prima esperienza è fallimentare, ce ne vuole una seconda che permette di prendere maggiore coscienza della vocazione che si è ricevuto. Ora, ecco, dietro questo scenario sembra muoversi un pochino Marco. Ora, noi non sappiamo se questo lui lo attinge dalla sua esperienza, se lo attinge dalla riflessione sui grandi testi dell'Antico Testamento, ma sicuramente è qualcosa che caratterizza molto la sua teologia, è un elemento importante. Quindi grazie Carlo che chiamandoci da Verona ci hai permesso proprio di evidenziare questo aspetto che rischiava di rimanere in penombra. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, sono Claudio da Padova, buonasera padre. Buonasera Claudio, mi dica. Mamma mia, in qualche modo lei mi ha risposto, perché io ho preso coscienza recentemente del mio fallimento nella mia vita spirituale. Ero convinto di essere nel giusto e malogrotamente ho scoperto di essere nella tenebra più assoluta, dove c'è tanto io e poco Dio, insomma. In conclusione, parafrasando le spiegazioni che lei ha dato, mi ha anche un po' risposto, però io adesso vorrei capire, il povero San Marco, come ha fatto a riscattarsi davanti a Dio? E come potrò farlo io? Pregando e invocando Dio e basta? Sì, grazie, Claudio. Grazie Claudio, perché non solo hai posto una domanda, ma hai condiviso anche un pochino del tuo mondo interiore, un pochino della tua vita. E sai, non è sempre facile condividere quello che uno porta dentro, quello che uno vive dentro. Allora, come ha fatto Marco a riscattarsi? Guarda, la risposta che io darei a questa domanda mi viene proprio dal suo Vangelo, perché il momento cruciale del suo Vangelo, che è la pagina grande della Passione, Morte e Risurrezione, è un momento in cui si confrontano due nudità. C'è da un lato la nudità del giovane, che abbandona quel mantello e fugge via nudo, da un lato, e c'è la nudità di Gesù sulla croce, questo Dio che si è fatto carne e che viene messo in croce spogliato delle sue vesti. Quando abbiamo commentato insieme la grande pagina della Passione di Gesù, abbiamo visto come ogni fascia oraria Gesù viene spogliato di qualcosa, gli viene strappato qualcosa. Alle 9 del mattino la solidarietà degli uomini, non c'è una sola persona solidale con lui nel Vangelo di Marco. A mezzogiorno la solidarietà della creazione, perché le tenebre incombono sulla terra. Alle 3 del pomeriggio la solidarietà di Dio, al punto che Cristo vive la solitudine. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, in questo confronto tra la nudità dell'uomo e la nudità di Dio, del Dio in croce, c'è il momento del riscatto. Quindi, dov'è che Marco è cambiato? Da quello che emerge nel suo Vangelo, Marco è cambiato nel momento in cui sosta davanti al mistero della croce e coglie nel mistero della croce una straordinaria e sovrabbondante ricchezza che trasfigura l'uomo. Ora, Marco, vi dicevo prima, ha vissuto il momento in cui è stato scottato mentre si trovava accanto all'Apostolo Paolo. Poi viene però reintegrato da Paolo. Andiamo a leggere la teologia di San Paolo, quella che emerge dalle sue lettere. Che cosa c'è al centro della teologia di Paolo? Al centro della teologia di Paolo c'è il Cristo e questi crocifisso. E lui lo dice soprattutto nello scambio con i Corinzi: io non mi glorio di nient'altro se non della croce di Cristo e di questi crocifisso. Ciò che è debolezza e stoltezza davanti agli uomini è potenza e sapienza davanti a Dio. E questa croce, questo Dio crocifisso e nudo che è al centro della teologia di Paolo deve aver colpito così tanto Marco da avergli permesso poi di ricominciare, di rilanciarsi. E qual è il suo primo modo per riscattarsi? Scrivere l'esperienza vissuta, scriverla sotto forma di lieto annuncio. non dimentichiamo che l'Evangelista Marco sembra essere, teniamo sempre un margine di beneficio di inventario, anche se sono convinto che è lui, sembra essere quello che ha inventato il genere letterario Vangelo, cioè la trasposizione in narrazione dell'annuncio pasquale. Anticamente l'annuncio pasquale era una formula come quella che Paolo riporta al capitolo 15 della lettera ai Corinzi. Marco si rende conto che così rischia di diventare qualcosa di solo astratto, allora lo integra all'interno della narrazione dei fatti e della storia di Gesù, evidenziando i fatti e la storia dei discepoli e mostrando come delle semplici persone possano diventare icone vive del Cristo perché raggiunte e trasfigurate dal suo amore. Quindi penso che sia in questo faccia a faccia tra le due nudità, la nudità dell'uomo e la nudità di Dio, che è possibile il riscatto che emerge poi in quel primo giorno della settimana, dove l'uomo è rivestito di una veste bianca e siede alla destra e diventa in questo modo il portavoce di un Cristo che è rivestito di una veste bianca ed è assiso alla destra del Padre. Grazie Claudio per il tuo intervento. Pronto? Pronto, salve padre, sono Filippo, chiamo dalla Sicilia. Cristo Re. Mi dica Filippo. Niente, io volevo, mi associo un po' al fratello di prima, Claudio, un po' ha detto la mia stessa domanda. Anch'io, ascoltando le sue parole, mi sento, sto sperimentando il fallimento, come vuol far capire San Marco, perché io frequento un cammino di fede, sono nei neocatecumeni, e a volte uno si sente di camminare sempre sulla retta, però poi ti accorgi che il mio egoismo, il mio io prevale sempre rispetto alla parola di Dio che io ascolto. E volevo fare questa domanda, a volte ho paura veramente che fallendo sempre sulla strada di Dio, ho paura che se Dio mi dovesse chiamare all'improvviso, magari mi troverà, non sarò degno di entrare dove dice Lui. Come posso fare veramente per stare forte nella fede e non avere paura, amando senza ostacoli e senza limiti? Grazie. Grazie Filippo per il tuo intervento, perché forse senza neanche accorgerti, però nelle tue parole c'era già la risposta alla tua domanda, no? Il fallimento può essere proprio ben individuato nell'immagine di quella pietra che sigilla il sepolcro, no? E che tanto sta a cuore a quelle tre donne che si avvicinano al sepolcro, più che pensare alla pietra e alla tomba, quelle tre donne non è che pensavano molto altro, erano proprio i segni di qualcosa che sigillava, che chiudeva. Il fallimento a volte è questo, è una pietra che si pone su di noi, sulla nostra esperienza e la tiene chiusa, la tiene sigillata. Come fare per andare oltre? Penso che il primo passo da fare, oltre ovviamente a quello della preghiera, del permettere al Signore di abitare la nostra storia, è quello di non camminare da soli. Lei nel suo intervento diceva che fa parte di un gruppo, il gruppo dei neocatecumeni, è uno dei movimenti ecclesiali, non è l'unico, ce ne sono molti altri, sicuramente il fatto di fare un cammino che coinvolge una comunità, e qui il cammino primo che coinvolge una comunità è la comunità ecclesiale, oppure il far parte di un movimento, il far parte di un'associazione, comunque una realtà che ci permette di confrontarci con altri, è il primo modo per fare un autentico cammino di fede. La seconda modalità è ascoltare l'esperienza di chi già ha vissuto questo. Prima citavo alcuni episodi dell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento è pieno di figure di questo tipo. Il Nuovo Testamento cita spesso Mosè ed Elia, ma se voi andate a leggere il capitolo 3 del libro dell'Esodo, è uno dei capitoli che io amo di più, no? Lo leggo sempre vedendo tutte le reazioni di Mosè alla chiamata di Dio. Per 7 volte Mosè reagisce alla vocazione di Dio ponendo delle scuse. Gli dice no, ma c'è questo, no, ma però mi diranno, no, ma però io sono, non so parlare, no, ma però poi il faraone non crederà a quello che io ho fatto. Ecco, è interessante notare come abbiamo a che fare con persone che non è che nascono già guide del popolo, non è che nascono già profeti. Elia, non dimentichiamocelo, prima di essere profeta di Dio, ha fatto un tentato suicidio. È chiaro, dopo la grande vittoria sul Carmelo, quando ha ucciso tutti i profeti di Baal e non è riuscito però a convincere la regina, viene giù dal Carmelo col desiderio di lasciarsi morire. L'angelo gli porta il pane da mangiare e Elia, lo dice bene il testo, si gira dall'altra parte e volta la schiena all'angelo. E l'angelo lo dovrà svegliare dicendo: ti ho detto di mangiare, di camminare, perché il cammino è lungo. Cioè, ci sono persone che prima di diventare grandi profeti di Dio hanno vissuto lo scotto sulla loro pelle. Oltre a queste figure bibliche, cioè, ne potrei citare molte altre, i giudici ad esempio, Gedeone non è che era partito molto bene. Quando è stato chiamato Gedeone a guidare il suo popolo, mugugnava davanti a chi gli diceva: guarda che sei stato scelto da Dio, mugugnava e non di poco. E basta ripercorrere anche le vite dei grandi santi, grandi nella nostra ottica, nella nostra prospettiva. Tanti vengono da esperienze vere e proprie di fallimento, ma gli stessi fondatori dei movimenti ecclesiali a volte vengono da esperienze del genere. Basta vedere l'esperienza di Chico. Tu fai parte del movimento dei neocatecumeni. Ecco, noi abbiamo appena pubblicato come San Paolo, insieme proprio ai neocatecumeni, la storia di Chico Arguello, no? In quel libro, il Kerigma. È interessante la sua vita straordinaria. Io quando mi venne proposto questo libro per la pubblicazione lo lessi, ma restai profondamente colpito. Non sapevo che dietro noi lo chiamiamo il fondatore, comunque chi sta alla base di questo movimento, ci fosse un'esperienza di fede del genere, che passa anche attraverso dei momenti di prova. È il paradosso della croce, non c'è niente da fare, noi come cristiani non aderiamo solo al risorto, aderiamo al risorto che prima ha patito ed è morto in croce, cioè il segno della croce ce lo portiamo dentro, e la croce non è un segno di vittoria all'inizio, ma un segno di fallimento che si trasforma in vittoria. Certo, non dobbiamo isolare una cosa dall'altra, però tenerle vicine, cioè la croce che si trasfigura e diventa croce gloriosa, però dietro c'è questo. Quindi vedi Filippo, gli elementi ci sono già in quello che tu hai detto, fare praticamente il modo migliore è permettere a Cristo di abitare la nostra vita, perché lui porterà sempre un annuncio di risurrezione, confrontarsi con altri del nostro tempo, quindi fare un cammino di comunione. La fede non può essere vissuta in solitario, una fede comunitaria, una fede ecclesiale, e poi ripercorrere le pagine di chi ci ha preceduto attraverso la storia biblica, attraverso la storia agiografica, cioè le figure dei grandi santi, dei grandi fondatori, e sicuramente lì entriamo e cominciamo a pensare secondo una logica che non è una logica solo umana, ma è una logica che viene da Dio. Grazie Filippo per la tua domanda. Pronto? Pronto, buonasera, sono Romana e chiamo da Forlì. Volevo chiedere riguardo alla pietra che ci opprime, che ci ostacola il cammino verso Dio. Questa pietra, lei ha parlato che è la Madonna Maria che come dono di Dio ci aiuta a rimuoverlo. Allora, noi verso Maria basta solo la preghiera o la messa, la Santa Messa, il Rosario, la preghiera anche comunitaria, o servono altre cose per ricevere questo dono, questa grazia speciale, per poter seguire poi Cristo, per andare verso Cristo? Ecco, questa è la mia domanda, grazie. Grazie mille Romana, è la prima donna che interviene nelle nostre riflessioni della seconda parte. Allora, Romana evocava il momento in cui ho letto quel testo bellissimo di Tonino Bello, è un testo tratto dal suo libro Maria Donna dei Nostri Giorni, dove riflette sulle grandi qualità di Maria rileggendola come colei che cammina accanto al nostro essere discepoli, provando anche lei le sensazioni, le paure, i timori, le esitazioni che a volte caratterizzano il nostro cammino di fede. Ed è molto bello il momento in cui Tonino Bello commenta la scena della risurrezione, perché presenta Maria come colei che ci aiuta a rimuovere questa pietra che dal sepolcro impedisce che esca veramente l'annuncio della risurrezione. Quindi, come fare perché Maria effettivamente rimuova questa pietra anche nel nostro cammino di fede? Sentendo la compagna di cammino. Tonino Bello dice all'inizio di questo testo: guardate, a me non piace, non voglio avere una Madonna con il velo circondato da 12 stelle e con la luna sotto i piedi, non mi interessa questa Madonna qui. Lui dice: a me piace Maria che ha i capelli sciolti e che ha i piedi sporchi di sabbia, sporchi di terra. E praticamente a me piace Maria che cammina con i discepoli. E questo è quello che la Chiesa ci affida, è questa la Maria che la Chiesa ci affida. Una donna che cammina accanto al nostro essere discepoli. I rosari hanno senso nella misura in cui noi riusciamo a cogliere questa dimensione di Maria, cioè sentirla compagna di viaggio. Il rosario non è una catena magica, ma è un aiutarci a entrare nel mistero, nella vita vissuta di Maria. Prima dicevo, il cammino di fede lo si fa ripercorrendo le storie dei grandi personaggi che hanno caratterizzato la storia biblica. Tra questi non può non risplendere la figura di Maria. Le pagine del Nuovo Testamento, del Vangelo di Luca, del Vangelo di Matteo, ma anche del Vangelo di Marco, sono stupende quando riflettono sulla figura di Maria. Voi sapete, perché l'ho detto più volte, nel Vangelo di Marco Maria, la madre di Gesù, ritorna solo in un punto, e questo punto è al capitolo 3, quando si presentano a Gesù i suoi parenti insieme a sua madre, perché lo vogliono portare nuovamente a casa. I tuoi parenti e tua madre sono fuori e ti cercano, e Gesù li lascia fuori, perché vuole far capire ai suoi che essere discepoli non significa dare comandi da fuori, ma sedersi attorno a lui e ascoltare la sua parola. E io sono convinto che quello è il momento che fa fare un altro salto di qualità tra i tanti salti di qualità che Maria ha fatto nella sua vita, quello di tornare a Nazareth e di chiudere finestre e porte e di mettersi discepola tra i discepoli insieme al figlio, percorrendo tutto il cammino di fede. Ecco, questo è il modo in cui Maria ci è vicina accanto a noi e ci fa vivere anche l'esperienza della Pasqua, che le permetterà poi, come dirà Giovanni, di essere ai piedi della croce ad accogliere tutti noi in questo cammino di fede. Grazie Romana per questa tua domanda. Pronto? Eccomi, pronto, buongiorno, buonasera. Buongiorno a lei. Sì. Padre, io intanto devo ringraziarla per queste riflessioni profonde che vanno veramente a farci luce su pagine meravigliose, ma che comunque sono sempre da scoprire, no? Allora io pensavo, quelle donne che sono scappate via, spaventate, e che non hanno detto niente, questo secondo San Marco, io esatto. Poi faccio una riflessione, no? Un evento del genere, una donna, quando la riceve, non può non completare l'opera che Dio ha iniziato, e allora dico e penso, quella paura è venuta perché il periodo era pericoloso, perché ancora andavano cercando i seguaci di Cristo, no? Allora sono scappate, probabilmente quando sono arrivate alle loro case e hanno trovato i loro figli, i loro fratelli nell'intimo della casa, sicuramente hanno parlato. Quindi io immagino che 8 giorni dopo che arriva lo Spirito Santo a dare piena luce, perché proprio 8 giorni mancano a che lo Spirito Santo dà piena luce a tutto, a tutta l'evangelizzazione, allora io penso che quelle donne hanno preparato il terreno quando poi gli apostoli hanno avuto il coraggio di predicare fuori, aprendo le porte, quindi hanno avuto conferma, quelle piccole famigliole che sapevano in privato, poi alla fine hanno avuto il coraggio dello Spirito Santo che, passando dalla gioia degli apostoli, è passato in questo mondo laicale, nascosto. Quindi diciamo che l'evangelizzazione incomincia da quel seppellimento con Cristo. Non so se riesco a farmi capire. Come si chiama lei? Poi rispondo perché sta scadendo il nostro tempo. Come si chiama? Aldo Ottomanelli, diacono della diocesi di Bari, e sono a Roma. Bene. Per una piccola opera per gli emarginati. Grazie Aldo per questa domanda, rispondo subito perché poi devo restituire la linea, no? Ovviamente questa chiusura del versetto 8 è una chiusura che lascia, come vi dicevo, disorientati, per cui le interpretazioni di questo versetto, il versetto 8, sono state le più diverse. Tra le più diverse ci può stare anche la sua, che però è una ricostruzione, mi permetto un po' di dirlo, frutto della fantasia, della riflessione. Cioè lei dice è andata a casa, poi nell'intimità hanno detto ai loro, l'ipotesi va bene. Il fatto è che al versetto 8 l'Evangelista dice fuggirono dal sepolcro, erano pieni di terrore e disorientamento e non dissero niente a nessuno. L'Evangelista non dice non dissero niente a nessuno, poi nell'intimità della loro casa c'erano i figli, allora a loro dissero qualcosa. No, all'Evangelista basta dire le donne non hanno detto niente perché avevano paura, punto. Quindi quel messaggio di grande speranza, che ha la forza di cambiare il mondo, che ha la forza di dare una svolta alla storia, rischia di rimanere sospeso, rischia di cadere nel vuoto. E allora ci vuole qualcuno che se ne faccia carico. Chi se ne deve far carico? Chi ascolta o chi legge il Vangelo. E chi è che ascolta o legge il Vangelo? Sono io. Sei tu, Aldo. È Romana, Filippo, Claudio, Carlo, Cristian, tutti coloro che sono intervenuti, tutti coloro che hanno ascoltato questa trasmissione, tutti coloro che leggono il Vangelo. Ecco perché il Vangelo di Marco era probabilmente letto nella grande veglia pasquale, perché era il mandato che veniva dato a coloro che venivano battezzati. Il loro mandato era accogliere il mistero del giovane della veste bianca, loro stessi nel battesimo ricevevano la veste bianca, per diventare annunciatori, non lasciare che questo annuncio pasquale cadesse nel vuoto. Vedete la ricchezza del Vangelo di Marco. E mi fermo qui con l'augurio a tutti voi ascoltatori, a tutti noi, di essere proprio questo giovane assiso alla destra, rivestito di bianco, che sa irrompere nella scena del sepolcro con un annuncio luminoso. E ringrazio tutti coloro che sono intervenuti con le loro domande, arricchendo la nostra riflessione sulla parola di Dio. Che questa parola continui ad accompagnare il nostro cammino e a illuminare la nostra vita. Ci risentiamo nel mese di ottobre. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.